Hey! Don Dietasti, quello che succede. Gelo Terzo, Speaker Skull, questo è il nuovo mondo. Jason al beat. 2011. Benvenuti in paradiso, questa è la fine del mondo. Gelo Terzo su sto beat come Rocco dentro un porno. Questo è il giorno del giudizio, il viaggio di ritorno. Se dopo questo pezzo come dei affair tomorrow, predestinati danni ormai il giudizio universale. L'Italia io la guardo da sotto lo stivale. Dalla valle antica, tre templi e miei graffiti. Non esiste un'altra vita, allora siamo finiti. Cancella i due miti perché sono falliti. La fine è vicina, esplode tutta la city. Come Hiroshima e Nagasaki, solo bomba a mano. Preparati allo scontro se lo credi necessario. Maschera antigas tra fumogene e malaria. Esplode la Sicilia tra Palermo e Catania. Tu scrivi sul tuo diario la fine del mondo. Gelo Speaker Skull, siamo pronti al confronto. 3, 2, 1, preparati allo scontro. Gelo Terzo, Speaker Skull, la fine del mondo. Senti che la terra trema sotto i tuoi piedi. Questa è la tua fine se ancora non ci credi. 3, 2, 1, preparati allo scontro. Gelo Terzo, Speaker Skull, la fine del mondo. Senti che la terra trema sotto i tuoi piedi. Questa è la tua fine se ancora non ci credi. Ma è la fine del mondo oppure un nuovo inizio? Questa è l'era dell'oro, del bisogno e del vizio. Sopravvivo quanto basta con il mio destino in tasca, col sistema che mi incastra senza uscio né finestra. Sai che faccio? Sfondo il muro, datemi le bombe. Ho la sindrome assassina, quindi faccio necatombe. E non dirò a nessuno né l'ora e neanche il giorno. Arriverò a sorpresa per creare un nuovo mondo, senza vittime e carnefici, né servi né padroni, ma solo nuova gente con migliori intenzioni. Con voglia di creare, voglia di costruire, creare un nuovo mondo a generazioni successive. Mai è il nome del mio cane, mica un calendario. E per questo vado avanti, sempre dritto e mal contrario. E non credo che nessuno faccia la mia intenzione. Quindi adesso basta, ora rivoluzione. 3, 2, 1, preparati allo scontro. Gelo Terzo, Speaker Skull, la fine del mondo. Senti che la terra trema sotto i tuoi piedi. Questa è la tua fine, se ancora non ci credi. 3, 2, 1, preparati allo scontro. Gelo Terzo, Speaker Skull, la fine del mondo. Senti che la terra trema sotto i tuoi piedi. Questa è la tua fine, se ancora non ci credi. Gelo Terzo, la fine del mondo. Speaker Skull, la fine del mondo. Jason Rale, la fine del mondo. Yo, Mr. Dolly, la fine del mondo. Hello.